ci ti conosci, tutti imbrocciati, poverini, non l'ho vista, l'ho sentita, non l'ho vista, purtroppo è così, me li avete voi, a quella l'avrei messa a fuoco davvero, ma ha rovinato un sacco di persone quella lì, per carità. Piano piano, poi crolli. buttata l'anno scorso, ma non era quest'anno, quest'anno mi ha crollato, me l'ha buttata a terra a me. E io c'ho, diciamo, c'ho un grande fisico, se trovo gente gatta con fisico a me, guai. No, io. E vabbè, tu quanto ne hai fatto antibiotico, una settimana? Una settimana antibiotico ho fatto, sì, sì. Meno male ancora, e fino a sabato dovrei finire, sabato mattina finisco. E allora, se termini sabato, praticamente hai finito la, la cura, diciamo. Ma c'ho più pancia, cosa devo dire, non ho più pancia, sono la tavola. Perché stavo mangiando pochissimo, stavo mangiando regolare, non più come prima roba pesante, anche perché mi veniva, diciamo, l'esitata di mangiare, perché con l'influenza c'è benissimo che la voglia passa, si passa la voglia di tutto. E quindi, sto meglio, adesso è sceso, mi sono pesato, adesso è sceso 10 kg già. Sì, attento, non scendere tutto all'improvviso. C'eri di simugiare anche da voi. Ma la sua nuova volta mi si è piegata la gamba sinistra. Eh beh. No, io qualche chilo l'ho preso perché ho troppo. Stavo scendendo troppo, vabbè che io l'ho fatto a proposito. Ma se ce va bene così. Più di questo non. Più di questo non salgo. Capito? Ma tu stai bene così qua, cosa dimagrire? Stai bene, vabbè, ma sono venuta, va bene, cosa? Io ero troppo. Io qua ero troppo grasso, mi stavo più i pantaloni, ma mi raggo. Adesso i pantaloni che mi metto con la domenica, che l'Ivis. Tanto mi tocco di voce, detto. La cinta, cioè, è proprio niente, dopo qualche volta non avevo regalato tu quella, come si chiama, il guru. Chi su la mamma va? Quella era grande, eh. Era grande. Mi l'ha presa, aspettare, si è allontanata un secondo Anna, che l'ha chiamata la madre. Non so, che l'ho sentita da qua dal baracchino, vedi di fare con comodo, non c'è il problema. Sì, io non già sto tornando. Che voleva tua? Ma che vuol fare? A cambiarla voleva. Hai scelto la cambia sempre dopo cena. Ciao Anna, come stai? Ciao, no, no, non sta bene, mica la raucina. Con la raucina, la raggiolita. Guarda che te l'ho detto, l'ho contagiata io. L'ho contagiata io, ieri notte era a terra, cominciava la febbre 38-39. Oggi un po' di sta un po' meglio, va. Sta facendo la cura antibiotici e si sta facendo bene, va. Ciao ragazza, saluta mia tua socia, la parte mia, la parte di Teresa. Ehi. Vabbè, grazie, ciao. Ci ha fa parlare. Ah, vediamo che non si intende quando va vita. Poi si sta della rauca. Ma non ce l'ha mai riguardata lì qua, perché se c'è una fottitura, ti frega, Oggi ho visto che le temperature sono più basse rispetto a ieri. Già lo so, infatti me lo sta contagiando lì, ma piano. Tu stai incubando, non te ne stai accorgendo. Ma c'è anche io così, incuba, sono cresciuto da te un salame in terra. Io se non ce la faccio, se non avete malattia, non sarà quello il problema. Non è quello il problema, fra chi a fare a casa non ci riesco, capito? Non ci riesco per mille motivi. Non si sa fare a casa. Preferisco andare al lavoro, lo farò al caldo, però andare. Va bene, il lavoro tuo era diverso dal mio. Io purtroppo esco, prendo aria, poco d'aria, dal caldo al freddo, quindi è diverso dal tuo settore. Oh, bianco un secondo, riprendo subito. Pappa. Daniele, già siamo qua. Ma tu ce l'hai qua, no? No, ancora no. E anche io, ancora, pronto. Già è bello, sta bene, ricca, ti dico la verità, l'ho studiato bene, è il divano, c'è la coperta, conduce a cuscino, sdraiato, TV e apparecchio. Vedi, qua ci possono anche rimanere in radio, ma quando vai su quella camera qua, non è più come prima, non mi appassiona più perché c'è freddo, cioè, non c'è TV, non c'è nuda, cioè, mi annoio. Ah, qua io non lo so, ho messo le radio, cioè sono le radio, c'è il computer, c'è il televisore, c'è il letto, c'è tutto, quindi non riesco un problema, anche poi mi stanco e mi viene il 11p come fa a casa, capito? Non è quello il problema. Qua non so, cosa vuoi fare? Purtroppo io sono costretto a arrivare. Sono costretto a rimanere, ho sofferto di più, soffro ancora di più, cosa mi dico? A uscire non posso uscire perché stavo a uscire ancora, perché ma sto bene, ma non sto bene, perché ogni tanto mi vengono questi brividi, boh, leggeri. E perché ancora c'è freddo, capito? C'è freddo, no? Non è che c'è caldo caldo. Ma ti dico una cosa, ma mi piglio un'imbriaghiera appena che ci la rompi, mi porta a pezzi. E poi ti senti di nuovo male. Che bella, c'è la doccia sfruttata pronto. Ah, Lucia, l'ho già detto Luca. Bibi, la Juliflex. Juliflex. Sì, bibi, la Juliflex, la Juliflex. Stavo dicendo, quel filtro 2 famoso di quell'altra radio, quello se lo metti a 2 non c'è ricordato che vuole tutto abbassato. E per me. Ui ui ui, coro mio, coro mio. Tra un po' vado a cenare, poi vado a partite. E basta. Se ci siete dopo ci sentiamo, dopo poi dopo. Sì, ancora non è pronta, cioè io già sono qua, vado a scavare. Cavagava, se mi ci entri va bene, se no spengo anche io. Tu lascio il acceso, dopo cena me faccio altre due chiacchiere qua e poi si spegne tutto. Daniele! Ha fatto in bianco qua! Ha fatto in bianco? Cazzo, due gare c'è stata il TV, no? Sta avendo, cazzo, un infarto sta avendo. Oh, caro, fai il palo, c'è lei quel figlio, ma fai il palo, non va bene. Sono troppo finito. Si rovina anche la piastrina e se l'ha perduto. Ma mi sa che c'è niente, di cuffia o la lampadina? No, le cuffie, la lampadina gli ho comparata. Però non mi piace, è bianca. No, per carità. No, l'altra è la micidiale, è bella, bella bianca. Bella. Cioè, bella non bianca, gialla, più che bianca. Ai via, ma che cazzo sono uscita? Questa qua non mi piace, però. C'è cioè, metti quella lampadina che hanno le macchine nuove, bianche, così. Opa. Oh. Se metti questa la risa. Se già, l'altro giorno c'è questa andata la pacchia, dove sta facendo del ritroso? La facciata è terra, no? La faccio fare un attimo in radio. Lui è trovato in bagno, c'è dove sta la risa. E dopo, sto con chi? Di cosa non c'è? Non è già, ma sono andato a scoprire. Che se sono portato in bagno? Oh. Il saldatore ci ha messo il piede lì. Ho fatto andare la bagnata. Non ci staccava più, ha bruciato tutta la tavola. Tutta la tavola. Ehi, cos'è che succede? Non so. Ah, ti dà una storia di bruciato, cos'è? Adesso c'è la cosa. Ah, eravamo da casa, c'è questo qua, la camera, non entrare in camera, non entrare. Non entrare, non entrare. Perché? Non entrare. Tanto, cosa ha fatto? arrivano, se non va attaccato. Se non va attaccato, proprio un minuto prima. Da entrata, no? Io non c'ero perché le mani mi servono fuori, se non mi ricordo. E la casa così da loro rimano nei casi. E siamo già qui niente. Prima di giù. E cosa mi ha bruciato la mano? La mano si è bruciata, allora. Faccio una rapina in banca, mi guarda. Ormai tutto in diretta ti fanno vedere, raga, allucinante. Tutto in diretta, Yes. Vabbè, ti fanno vedere rapine, di tutto, morti, omicidi, di tutto. Allucinante, avviso scoperto, i quattro. E allora, non si fanno problemi, prendono, entrano, fanno i fatti loro, arrivederci e grazie. Si cade in diretta, vattene via. Oh, iaia. E un altro video che mi ha fatto vedere, lo stesso alla, dov'è, al canale 5 mi sembra. Di quel boss, non so se lo stava combinando. La madre uccide il figlio di 2 anni, cazzo, 20 coltellate gli ha tirato. Ma ci boh, ci fa di capo del genere, cazzo. Boia, non c'è la gente sana, no, per carità, allucinante. A lei le ha dato 20 coltellate, cazzo. Perché mi ci vuole il coraggio di ammazzare un bambino, cazzo, di 2 anni, aiuto, ma stiamo scherzando. No, oh, vabbè, dice, da qua ne fa parlare, dice, nella TV e roba del genere. Dice che era presa da pressione fortissima, era pizza. Oh, io c'è l'altro, dov'è? In Inghilterra. Quel sonnambulo che ha ammazzato la moglie. Questo? Un sonnambulo in Inghilterra, dice che ha ammazzato la moglie mentre dormiva. Avanti, cazzo, ci ha lasciato tutti i colori, ma per carità. Gesù, vedi che forse non gli facevano niente, neanche lo arrestavano. Ma dimmi tu se sono andate avanti giuste. Oh, ya. Yeah. Il mondo sta girando, sta lasciando fuori di testa, capito? Non c'è più gente sana. No, si possono contare sulla punta delle dita le persone sane, sane, veramente. Tutti gli altri in testa a vero, al contrario sta andando il mondo, Tu vai me la macchina, cazzo, me ne stata, macchina grossa, figlio di papà, su di sopra in tasca, bella vita, donna e tutto, discoteca. Fai me la macchina, arriva il robot che si chiude la robot. Cisciola. Oh, andiamo, vai. C'è che ha lasciato un biglietto, c'è la scritta dalla macchina, che non era stufo di fare questa vita che aveva fatto, aveva provato di tutto e di più. Ah, ecco, aveva fatto tutto e si è ammazzato. Beh? Si è ammazzato. Ma che poi bisogna avere perché si è ammazzato. Muore per altri motivi, dai. Cosa c'è tutto sotto, non è così, no. Beh, va, seri problemi. Ora è incasinato forte, boh. Vabbè, si può essere incasinato un po' che da ammazza, in caso di una fuzzi. Molta gente, è fredda si ammazza. Ma quello lo scuote, c'è il cacchio, si è arenato. Se c'è una mentalità, cosa vuoi che ti dico io? Papa Lucaria è riuscito a gestire queste cuffie a installare questi 4 fili. 15 fili, sì, ne ho già saldato 10, però mancano 5. E allora già si è quasi finito, là. Tu vedi la testa, non è che stia vantando, eh. Noi ce ne abbiamo la testa in ballo e lui se viene a fare tutto. No, io non ero di quella paziente, ma io ti ammiro per quello, perché tu c'hai pazienza nelle tue cose. No, non è che, Luca, non è che non ho pazienza. Mi stufa quando comincia a salvare un figlio che poi comincia in nozzata, che comincia ad uscire, allora prendo e ci butto via tutto. Ma non lo so, se vuoi, mi dico tutta cosa che abbiamo a me. Ma fatta apposta, fa una cosa all'inizio, poi alla fine, c'è quando è arrivato e non fa più. È lì che io facevo un mulinello fu contro, chiamato l'amico di Claudio, tu mi fai un mulinello, ma vera, ma tu mi dici, non volevo questo mulinello. Non lo posso immaginare. Ma lo sai che vuol dire? Portato a zero, Luca, zero, si intende proprio un po' crollo, lucidato, fatto la cosa, la trigiava al fondo, ha trovato la vernice, è uscito nuovo. Beh, sì, c'è mano buona, diciamo, la mano ferma, ecco. Non verniciare, non mi vanto, però, l'hai visto gli apparecchi ho denunciato io, ma sono usciti bene. Ma c'è sempre una sgocciolatura. Casino. Ho fatto il 68, il colpo è 68. Lì della Daria lo voglio portare, piano alla miera, è andato prima al fondo e poi è arrivata la verniciatura. Cava! Sì, l'ho fatto a zero. Verniciata, sei stato verniciato, non buon buono. Ma c'è come l'ho fatto a buttare la farla a zero? L'ho fatto la miera lucida, io l'avevo di lucida. Lucida, si intende, non è un... Non volevi lasciare nulla, ma con peso di vernice. Mi facevo accordato che ho fatto, la T250 dove è uscito. Portato a zero completamente anche quello, Luca. Non so che hai... visto che le vernici bella. Aia. Fratino, mi sono venuti qui, non troppo, se va bene. Bene, almeno iniziamo con le cose possiamo. Eia. Mi pare, dai, già riconosci tu. No, ma non faccio una cosa, ma la prendo con passione. Se la voglio fare la faccio bene, però se mi trovo i giorni magari che non ho voglia, ma come va, qualcosa male, poi ci butto via tutta la mondezza. Ci ho fatto così. Salta Daniele, a Daniele saluta, rubi, salta Daniele. Buonasera. Questo è più bello, abbaita. Arrivederci, arrivederci. Allucinato. Ma va, la moneta anche lui stava facendo. Bello, sai che ha combinato, va. Tanti che ti sentiamo ti sono combinato, guarda, a raccogliere, a pulire. Ma tanti che ti sei zavato, va. E lui non ne va di più, tu. E oh, iaia, Mimì, Iagurino è rispuntato, ha sentito la roba e ha rispuntato Iagurino, oi. Iagor! Ascoltando sta a me. Sta ascoltando. È fuggito Iaguri. È dal microfono. Di quelli spinti. Sta addestrato, da una volta l'ho stronata, poi da mia mamma. Che veniva una ragazza a seguirla, non mi ricordo. E diceva sempre arrivederci, lui da quel giorno si dice arrivederci, rimane a provaggiarmi, vabbè. Arrivederci! Lì, no, Lucia ti dico. A me gli aguzzo, arrivederci! Arrivederci! Non racconti la vigrina. Ehi, ormai è abitato così. Bob, mi sembra che stia salutando veramente. Mimmo! E beh, Rugarie, fatto hai? testa. Testa esce, è una cosa incredibile. Ma la fine, aspetta, c'hanno il naso fino, porca miseria. Ti mandate un vino però, che è allucinante, vabbè, non li puoi fare. Se non ancora così rimangono, Daniel, purtroppo, non li devi mangiare. Poverina, sicura. Voglia. Cava cava e cava cavo. A proposito Daniel, stavo dicendo, e poi quella, di quella vernice abbiamo fatto il capo. E volendo, ho preso la fibra bomboletta dell'originale della Kingwood. No, prego più, non sono più andato a cercarla, a prenderla. Bisogna arrivare a prenderla. Perché quella che voleva l'originale Kingwood, un doppio era la bomboletta. Cava, bisogna cercarla. Pagava, c'era un ti volevo dire, un 4,40 in vendita su internet, 400 euro, l'accordatore corporato. Ma compra subito. Di un radioamatore, adesso mi ricordo, mi pare che era Sierra, Sierra Whisky India, una cosa del genere, che operatore, che poi si chiamava Gaetano questo, Gaetano Reggio Emilia, stavato praticamente 4,40 con l'accordatore incorporato, MC60 più l'MC, adesso non mi ricordo questo qua, l'MC83 mi pare mal di tutto, non MC, e mi sono normale, sono quanto 400 euro, praticamente lui ha detto trattabili e secondo me con 350 euro porti via, infatti lo volevo chiamare a vedere appunto, secondo quanto ne voleva lo prendevo. Ehi, non è sempre se messo bene, se funziona, se cacchio quello è, c'è sempre quel se. Lui ha detto apparecchio funzionante, garantito è tutto. Quello è, porca miseria, e quello era bello, vedi? Se lo volevo chiamare io, lo volevo prendermelo io, ma se tu lo vedi è nuovissimo, vedi? Una bella radio veramente, 4,40, accordatore corporato tutto quanto, l'MC60 e il microfono normale, più praticamente il libretto di istruzioni, i cavi sui nuovi, tutto quanto ti dava. Qua lo trovi, vai, Cippo, Radio Matturi, la piena Radio Matturi, metti, la piena del Radio Matturi, ti devo portare il radio, ci sono, vai sul sito Kingwood, oppure gli metti, cerco Kingwood attivi 4,40, i punti, sì. Schiacci e ti porta al sito del 4,40. Ma c'erano anche da 500, 600 euro, 8,50, 9,40. Cacchio. Hanno un valore, porca miseria, Daniel, vado a cenare, dai, ci sentiamo dopo. Allora, dai, buona carica con tutto, dai. Ci sentiamo dopo, anche tanto lì, stanno a mangiare. Cavolo, dai, a dopo. Ho fatto una battuta che ti già vedi, poi non è il che chiudo tutto. No, dai, l'accendo qua. Pronto? Lucario, vado a cenare, dai, la occhio. L'autoparlante, diciamo, a posto, dai. Guarda, se le voci agli uomini un paio di cuffie con il microfono. No, queste sono serie. Senza offesa, No, non è giustata, dai. Sembra, Si sento. Quello vanno. A sentirsi vanno, per me se va al mic. Allora, io li ho visti dai cinesi delle cuffie, belle, col microfono e tutto, pare 10 euro, va bene, devi divarli, lì. Ah no, non sono d'accordo, Fra. Non sono d'accordo, sinceramente, perché non... Queste sono buone. Io pensavo che erano scarsine, invece sono buone, sentono bene. Adesso vediamo, dai, vediamo un po'. Se vanno, se no, vedi, si abbia in culo. Vabbè, già mangiato, vabbè. Ditami. Punteggio del girone, l'Inter non ha dietro, si è il girone. dopo si è arrivato Lellino. Lellino! La crapa? No, rabbicola, Zè. Dove? Cazzo, bo. Ma gli ha dato le tre alcune, no? Non sento niente io. Non sento niente io, fa. Manco la mosca volare perché ho chiuso lo squarci. 2960. E si aprono i segnali oltre il 9910. Non sento niente. Lì se non è inutile sta a tira e molla. Non ti vorrei dare, io vorrei due alla giura, ma tutti niente. Dove è Danielino? Lellino! Sì, ma tutta la cosa che stai mangiando, no? L'arrosto e le sarcicce, maledetto, cazzo. Sarcicce? Le sarcicce arrosto che stai mangiando, no? Cara è morte, ho capito, cosa hai detto? Vabbè, domenica al lavoro. Però mi ha detto, quando fa il certificato, se non sta bene non deve rientrare. Viene qua e gli faccio un altro certificato e li proseguo avanti. Mondiali. La Spagna giù, ma che la Francia, come se tu calzettina ti stai mandicando, no? La sorte. Prima ti mangi le calzettine e poi ti mangi le salsicce. Ma niente, Lellino, ma niente. Stanno per fumare di più, sta mangiando parecchio, parecchio. Lellino! Tu vuoi un film e... il Rai 1, mi sembra una mezza cagata. Ma io non cambio. C'è il prete che dice la cici. Ognuno può sentire meglio, io sono qua. C'è la radio, c'è lo sconfitto e televisione accesa. La radio è tutta accesa. 40 metri, 80 metri, 10 metri, 11 metri, 20 metri. Poi c'ho le due lingue accese, le due lingue accese. Poi c'ho il ricevitore che sta sempre andando e tornando, andando e tornando. Poi acceso, poi acceso. Ma sono tutto nascosto, 10, 40, 80, poi 40, poi 21, 10, tutto acceso. Bene, bene, tieni sotto controllo, così tieni sotto controllo, chi dice, per lo smetto, no, ma si è giunto. Sono sceso da niente, guarda, moglie. Ai ai ai ai. Allora, Dante, non è da farli? Quasi quasi una barzelletta, coppa! Ma ne poi voci che giù ruccia di tu rifatto, va vai, fini in nera! Come ti vedi, coppa? Tanto più chiede lì, vabbè, va, tu mi riabbrati. Capito, c'è cava rucci. Ma ci non muoci che c'è tutta la piazza. Che se lo coppa ci va, ma oh cazzo, tanto mi hai piatto, tanto mi riabbrati. Coppa! A non vedi voci che giù la cruce, un cazzo, due zetto mi riabbrati. E lo coppa ne poi, vabbè, tanto mi stava in su e l'ha commesso. Tanto mi piace le cava la piazza. Tanto ci muoci che giù la cruce. E quindi? E siamo cercati due occhi allora? Io ci vuole regressarlo, eravamo cercati normalmente. L'altro giornalmente non si ubriacava l'occhio, che era visto, era vero, finto, non era finto. Era occhio suo, no? Allora ci ha tolto la lettiera, a casa ci hanno cercato con la lettiera. Ma lo sai, cazzo, un giorno andiamo qua, a nascosto. Andiamo lì a mangiare, stavamo facendo la lavoro a casa di volta. Abbiamo fatto, e vado un po' di pari. Io dice, non andiamo a mangiare, dice, tu vai a aiutare. E no, che tu che vai in giro, quindi con vai a andare, guarda lui. E tu va, io la gira scopri ad andare al pomodoro, andiamo al pomodoro, la mangiamo lì. Eravamo io, Luigi e altri due colleghi. Cazzo. Entriamo, la regalantonata, non va niente, io ho preso una pizza. Luigi lo stesso, Luigi ha preso una pizza per a quattro formaggi. Poi c'è arrivato questi qua a casa, tutti giambati, quelli di moglie, di chi da niente proprio di pariare. La moglie di tu, lui ha detto, non vede che fa. Cara, cosa prendi tu? E la moglie di fa, una pizza? Tu vai da rifarti, caro, e tu? E io guardi se c'è una bella quattro formaggi, rifarti, lì sono felice di tutto quanto, che ha fattato, profumato, cazzo, vabbè. Arriva la quattro formaggi e mi tocca a presentare, cazzo sta bene, poi la ricetta ancora in nulla. Mi dice, lei, me la prendiamo, ma che c'è un gasto piano piano, si abbasciava a tagliare. E non riesce a tagliare la pizza, la ricetta, ma devo arrivare. Vabbè, allora la pigliata, siccome non ce l'ha fatta, non ce la faceva a tagliarsela, invece non era abituata a tagliarla con la forchetta o col te. Quindi la fatta ce la piega questa pizza, la piega è con un mosso. E con un mosso cazzo di riparare e tiene in terra. Se tu c'è la terra, frate, mi sono preso il pari qui. Allora preso il pari qui, quindi è quello che non va a dare in piedi. E quello non va a dare in piedi, cazzo. Deve vedere, cazzo, la dentiera rotolando, cazzo. Allora per cazzo di uscita. Sotto il tavolo, di direttore. Sotto il tavolo? Del direttore. Ma con tutti i sistemi che ci sono per... come fissaggio non capisco questa gente come faccia a perdere così la sensibilità dell'apparecchiatura, chiamiamola così, che se non in gergo diverso mi fa di schifo. Cazzo, ogni arrisata, cazzo, io non mi vado a vedere, cazzo, dovevo vedere, cazzo, in terra rotolando, cazzo, sta lentiera. Cazzo, si è pisciato, cazzo, è diventato rosso, cazzo. È entrato in bagno, ha pagato il conto, da me ci sarà conto la lettiera. Perché poi sono entrato in bagno, la faccia, e poi rimetterci. Ha pagato il conto e ce l'è fuggito. Cazzo, neanche il resto ha preso la figura di merda che ha fatto lui. Cazzo, nel cavaruccio come carico dentista, sarà tornato a casa sua. Sicuramente non era assai contento di aver visto una cosa del genere. Una volta vado a fare un lavoro lì a Palau, a un hotel, all'Hotel Serra, in lavanderia, cazzo solato, la prima di su, cioè un cane la pagliava, no, poi di tanto sta aperto. Decida ne c'era più la righizza, cazzo, quella che per i zomaca, ti giuro, di estate, con, aspetta cosa c'è, con, per i zomaca col tuo, guarda, senta reggiseno, ma perché non era la maniera di fare la torraggio quando me l'aveva mai data. No, l'ho fatta entrare. Cazzo, la gente buttando la mano, sta mai dentro. Ma cazzo, ha detenuto e mi ritrova la chita di la mamma. Non puoi farla dalla mamma. Vai, vai, sai, vai che dice la vasca è già piena, puoi fare la doccia, ah, posso andare, non puoi fare un... Come cazzo, non me la fotti la ruta, proprio. Non ho capito quella gente, non mi frega proprio niente. Non mi frega proprio nulla, quelli stanno così tutta l'estate. Quante volte mi è capitato anche a me quando faccio l'espedizione, uia, uia. Niente di niente. E anche nei asili, oh yeah. Nulla. Certo, perché negli asili? Ehi, negli asili, tu ne avete tutti i colori, come si dice, dove vai tu a fare le riparazioni da tutte le parti, fra così, no? È che Candona non era tutti nulla. Presenta come vuole, capito? Non ne frega proprio nulla, niente, niente. Proprio nulla, perché è proprio nulla. Cazzo, è capitato anche negli asili, in questi asili, cazzo, via Madrid, lo stesso. Cazzo, voi ci sono donne grandi, cazzo, qui di Zoma, cazzo, in Cina, e stanno apposta. A me si sono quattro buco del cuore che non ho a frase per malattia, ma tutto è. Lo so. Daniele. Pronti, vecchie. Sì, c'è da bagnare, da vecchie. Lo fungo si è consumato, la casita della bagnata, gli inventini, cioè sta giù là tutto rovino, minimo. No, il vino no, neanche il doppio di vino. Avanti giù le dottorulati. Vedi, quello ti ho ragione. Che mi manca quello guai. Cariello, capo. Cariello è compiuto. Ma pensa che fanno le sue catture. Sì, le cuffie sono a posto. Ma devo provare, Daniele, se riuscivo a costruire un elicottero. Non idea, come posso fare? Un elicottero? Un elicottero voglio costruirmi. La moto della macchina non fa affatto. Metti a l'elica dalla... L'elica del radiatore lo chiama come il coso. Sei già nel volo. E allora, le macchie lo chiama come l'EFA. Allora. Le partite sono domani, non giocano oggi. Ma Claudio la sta guardando in diretta praticamente, su Premium. Ma allora oggi gioca l'Inter. E il Milan la Fiorentina gioca domani. Gioca l'Inter, e prima di un altro c'è andato a Barcellona, ma di più Claudio. Le soffre di niente, su sarei da Bigliarita o Barcellona, sa sì. Ma dite, Dani, quando siamo con Cariucci, niente, sta perdendo col Barcellona 2-0, la Fiorentina sta vincendo con Lyon 1-0, e l'altra sta pareggiando. Comunque l'Inter, non c'è cosa va di qua, ogni volta che gioca in Coppa non c'è gioco, niente, cioè dormita, pigliato di nuovo una dietro l'altro, cioè il campionato non gioca così. Oh yeah, Cattello è fuori. Ah, quindi oggi gioca l'Inter, la Fiorentina, domani gioca il Milan. Yeah. Ah, ecco, potevamo intorno a fare i conti, ho giocato domani, gioca per la volta e poi per Rai 1, ho capito ci fosse la partita perché c'è il film. Sto guardando su media film, c'ho il pacchetto, capito? C'ho tutto il campione Milan, Arsenal. La stendarda 2 ne ha fatto. Arsenal 2 è stendarda 0. Poi c'è il patinaccio nel primo del girone. Certo, l'Inter è sceso al terzo posto del suo girone. Mi sa che non ce la fa neanche quest'anno. Allora io è prima del girone, quindi non te lasciati. Domani non si fa vedere, mi ha detto. Non so perché, te lo dico per esperienza. Allora, come perde l'Inter, non lo vedi per una settimana. Sì, era quella di appiccicare per un po', no? Te lo dico ancora di più, a volte la sa, capito? Perché uno, quando è sportivo, vince o perde, deve farsi vedere, deve affrontare l'avversario. Perché lui, quando vince, capo tutte le domeniche mattina a rompere le palle al bagaglio. Poi, quando perde, non sa affrontare la perdita della sua squadra, capito? Invece io sì, quando perdiamo, io l'ho detto anche ieri, cioè lunedì, c'è lavoro, c'è le Milanite, c'è l'Interista, c'è i Juventini. Noi abbiamo vinto con l'Udinese, ma abbiamo vinto fortunatamente di culo, perché sennò meritavamo un bel pareggio, sennò una bella sconfitta. Invece loro quando giocano male, non lo ammetto. Perché? Perché hanno questa mentalità vincente che sembra che debbano fare tutto loro in campionato, capito? Fusilli, così è fatta più o meno. Cioè, questa qua è la palla più larga e fa la luce bianca, questa qua è più stretta e fa la luce gialla. E a calda. E poi ha aperto quel casino lui. Quando ho fatto io. Ma parla in sardo, no? zecco. Sai che il dentiere non è facile a capire. Lo so, però non lo capisco in persona, diciamo anche alla tattura su. No. E più o meno abbiamo avuto osservati. Più o meno anche lui c'ha molti che, molto ricco, ma... e comunque c'è la radio più o meno quanto a me ne ho 2, 4, 6, 7, 7, 2, 9, ma forse lui ne avrà 10, 11, se mi ricordo, comunque c'è la ragazza Armiere Vera. E vabbè, e al prossimo anno se Dio vuole piaccio tutto, ci hanno attaccato a Cagliari a fare con l'esame, ma la compro una bella radio, ma una bella radio però, ve dico io. Poi c'è di un gioco, non ci ho mai capito. Allora, una bella radio ci vuole per fare radio, come ho detto, la compra non detta, quindi mi sa che per tanto l'armadio, la fattuisce. Tutto buono, con un'antenna buona e impianto buono, se no non si vuole fare, ha detto quello ricco che c'ho io, un quadro in banda, ma è una schiappottata, ci metti un pezzo di filo sul tetto, ma ho fatto mezza Europa già, anche lo spedito tutte le borsese. Bellissima radio quella, bellissima radio, diciamo la radio che c'hai tu, tu già non le hai, mon detto. Tutte le radio tenute conto, belle ordinate, tutte quante. Sì, a me mi piacciono le stazioni fatte in quel metodo lì. Radio belle, radio intendo radio a livelli di attrezzatura professionale, a livelli di Kenwood, Wilson e altre cose, tipo microfoni, gli AESO MC60, ok, SM20. Stavo dicendo, l'altro giorno stavo guardando un sito su internet a proposito dell'MC60, ma guardavo le connessioni che c'è lo schema, no? Infatti me l'ho stampato lo schema dell'MC60, delle connessioni, e più mi ho stampato lo schema del microfono della Yaesu, ma c'è benissimo che Kimbus può montare anche molto il microfono Yaesu sul 140, 430, quello che vuoi. Penso a fare delle modifiche sullo spinotto, sul connettore dello spinotto e basta. E c'è lo schema sia da modificare il cable per modificarlo sull'apparecchio della ICOM, microfono della Yaesu modificato per l'apparecchio cable. Perché non ce l'ho le capita quelle di spostamento, diciamo. MC60 posso usarli con l'ICOM e gli SM20 li posso usare con la cable, non è un problema quello. L'importante è che l'alimentazione microfonica sia sempre a 6 volt, se non a 8 volt. A 8 volt, perché sono radio che ce l'hanno anche a 8 volt, se fa, capito? E tu immagini che ho 1200 euro solo di microfoni. Solo i microfoni. Quindi fate il conto, che ho tutti i microfoni da 170 euro l'uno. cioccolati. Mangiate i cioccolati che fanno male. Non ne mangiare di quella roba, capito? Ti fanno male. Che tanto vuoi per il maggioritario, vai? Oh, ya, cazzarola. Sto mangiando un bel altro che... E poi dice di la vedi che non riesci ad andare in bagno. Con tutti questi cioccolati. L'antispurgo dopo ci vuole. Che fa l'antispurgo la fognatura del culo. Per carità di Dio. Sì, qua, io se tutto va bene mi voglio ordinare una bella radio. A me piace quella radio che c'ha il monitor. I com. Sono qua, e ogni tanto mi distrago, ok? Ci sono questi passaggi allucinanti che qua c'è l'ora, però tu si ci che mi piace quella radio che c'ha il monitor. Quella che c'è al monito tipo il computer, tipo il portante, rimane così. Della Icom, ma adesso non mi ricordo che modello sia. Avevo intenzione di prendermi quella è bellissima, è una bella radio quella. Che fa, ma... Io lo sai, no? I figli... E non sono sempre quelli. A chi mi vuole bene, a chi mi vuole male. Per poter avere quella radio bisogna che c'è prima... perché quella non pensare che sia una radio che puoi usare così come voi 27 o capito? Non sono radio molto latte, l'unica radio che vanno bene anche in infatti molti di voi radioamatori stanno tornando alle vecchie radio come queste tipo 430 440 che sono le più formali, soprattutto 440 che c'è la colatore automatico pure chi recupera un 430 si compra un attivo 50 come ho fatto io, perché i 10 metri va molto bene, la modulazione Kimbo del mondo laterale è sempre stata la numero uno e sarà sempre. I come si stanno adattando, gli ultimi che hanno fatto di ultima generazione non sono così tanto efficaci, a partire vabbè, si parte da quote molto alte tipo 7.800, 9.000 eccetera, quindi già però sono radio che costano 12, 13 mila euro, 10 mila euro, quindi ci vogliono quattrini e passione parecchia per poterli prendere. Io mi attengo sempre alle radio intorno ai 2.500, 3.000 euro che sono radio normalissime, che però hanno una funzionalità molto molto buona per me. Poi io sono uno di quei pochi radioamatori mediocri, diciamo, non ha molte pretese, sono quelli che hanno pretese, quindi vogliono delle radio sofisticate che diranno il massimo delle prestazioni, però hanno anche le antenne per poter chiedere alla radio di andare. Io direttive non le uso le filari, quindi mi accontento di radio così. Sì, a questa è la definitiva così. No, prima devo tenere quella patente, quest'anno sono sceso, ma il prossimo anno scendo qua, sto momento che scendo e la voglio tagliare questa albero e poi una volta che otterrò quel pezzo di carta mi prendo una bella radio. Allora posso dire, mi voglio prendere una bella radio. Le radio che stanno facendo adesso, come quella che c'ho io, sono tutte quadribandatrici, c'è le VHF, a display separato, c'è i 50 mega e c'è tutte le HF, quindi da 0 a 30 sintonia continua, perciò sono quelle di ultima generazione per quanto riguarda l'ICOM. Ti ricordo che la cable non esiste più, è stata assorbita dalla ICOM, infatti la ICOM sta marcando le vecchie radio in definitiva è così. Ti volevo dire, io ce l'avevo un po' di anni fa, io avevo da 4,40, certo, io ce l'avevo la linea da 4,40, avevo la linea da 140, avevo tutta la linea da 4,50, avevo venuto tutto qua. No, perché il discorso è quello che ho fatto io, se la radio ce li hai, noi puoi usare anche le ce li hai, avete quel bettione, dice io, insomma il campo, quella è una radio, fra, quella sì che puoi dire che è una bella radio, è detta metrica, non è a sintonia continua, però c'ha tutto, c'ha i pochi salti che servono, una bella radio amatoriale, poi c'ha tutte le bande larghe, c'ha i 10, c'ha i 20, c'ha i 40, c'ha gli 80, c'ha i 21, i 14, c'ha tutto, tutto, tutto, e c'ha le bande strette e larghe, sia in banda laterale che in, in FM, quella è una bella radio, sta sintonizzata con la radio finale a valore. Qualche giorno te la faccio sentire in banda laterale, in, in 20 metri, ti dico vai lì e ascoltami e senti la modulazione con quel microfono che tu hai visto attaccato e poi mi dici quella è una radio, se no te la faccio sentire in ricezione. E quel microfono che c'ha già l'ho visto, quella è vecchiotta, non è radio, però non la fanno più quella lì. E poi dico una cosa, le radio valvolare, ricordate una cosa, la... secondo me sono le migliori. Allora, come la, la tengo, capito? Com'è? L'ho vista le condizioni in cui è, manco in vetrina, la trovi così. Quella è il trasmettitore della Sommercamp, quello è il fratello del 101 ZB, solo il 101 ZB era scala meccanica, e questa qui invece è scala... scala analogica, però anche a frequenza elettro, capito? Quindi non è una radio, mi pare che sia del 68 o del 69, ma le condizioni in cui è una favola, è un treno, quella c'ha 250 watt picco picco. Assoluta, eh. Oh, stavo dicendo, la linea dell'Uden, subito c'è anche la linea Uden, no? Uden, sì, la linea Uden. La linea unica è allogata a Franco, Franco Delta. L'avevo regalata quando ero in fase di trasloco, come ho regalato, tu lo sai, non c'eri tu. Quante cose ho regalato? Ho regalato due FT, ti ricordi, quelli FT 707, ho regalato tutti e due, uno a Mario, l'altro a Claudio, non mi ricordo. Con il microfono tutto, c'avevo i due sia Sommercamp che Iaesu, poi quella linea 1 era grandissima, la linea Drake l'avevo versata per prendere il 10-2000 e io l'ho versato perché poi venendo qua lo spazio si è molto più grande, ma mi veniva male a fare i ripiani come avevo fatto a Carbonate, allora qua ho fatto scrivania lunga, già l'ho visto più ordinata e l'orario. Ho eliminato un po' di radio, ma ho messo quelle che orientativamente mi servono per fare attività amatoriale. Però ne ho ancora, c'ho l'altra linea anche dentro l'armadio, quella che ho avuto più la somma che anche su un altro, ho messo adesso i tre amplificatori e tutta la strumentazione che ho un po' eliminato. Per mettere da quella roba non si basta una camera. Una stanza ci guarda tutte quelle radio che c'è, però è bella, c'è una cosa da tenere, capito? Tanto qua non conviene mai vedere niente, qua non vale la pena. Cosa vivi? Non fa voce, non fa niente, io se devo accontentare qualcuno preferisco scambiare più che vendere. Perché poi sono radio che possono servire, capito, domani, non so. La linea della Sommercamp la uso, l'ho usata spesso, adesso l'ho spenta. stavo dicendo, claro, chiaramente le valvole ci crepano perché poi c'è un disaccordo, è normale che partano le valvole, quegli apparecchi lì sono andati così. Vaga, io l'ho conosciuto a Coso, mi ricordo, il padre di Alfa Romeo, che è radioamatore Alfa Romeo adesso, padre Beniamino, dai, l'ex finanziere, che allora abitava a Piazza Colonna Maria, non so se l'hai conosciuto. Io con, come si chiama, Fannapoli, adesso mi ricordo il nome del figlio, di Beniamino. Ci conosciamo da ragazzini, io da ragazzino di 16 anni, andavo a casa del Beniamino, figurate un po' se ne sentivo Radio Maturi, da Pagano, c'è una stazione allucinante, radio mai vista, in pacettoria continua, e quelle antiche, è là. Valvolare, faceva scaldare, faceva l'accordo, preaccordo, tutto quanto e poi usci. Tanta con la direttiva, c'è una direttiva, mi pare che era una 10-20. 10-20, gatta, col motore riduttore strutturato sopra, lui, già pompava poco, già. No, come ci sta buono, Beniamino? Figlio Romeo. È il postino. Questo è vero, ci dio. Non si è più sentito. Nulla. Lui ha preso il nominativo al padre. Era riuscito allora a farselo dare. Era un attimo il padre, cosa che non è che si poteva fare per me, se aveva consentito, capito? E non l'ho conosciuto, poi è venuto Romeo, è venuto a abitare a Carbonazzi anche lui, in via Rosa, in via verso le poste a Fannapoli, hanno fatto le poste nuove a Carbonazzi, è venuto a abitare lì. E niente, siamo conosciuti da tanto, tanto tempo. Sì, ma è così. Con la radio bisogna saperle far andare. Perché a differenza di una transitorizzata, non hai bisogno di accordo o niente, e la trasmissione se non è stazionaria. Ma l'accordo lo fai lo stesso anche se. Se è transitorizzata, perché se si non manda dove la antenna non risuona e devi per forza accordare con lo strumento. Quello là invece c'è il preaccordo, che è una cosa ben diversa. E quindi eviteremo il contempo, perché molta gente con molta esperienza ne ha bruciato di valvole senza fronte qualsiasi. A me non mi è mai capitato. Io ho avuto tutta la linea 101, ho avuto tutta la linea Somma e Capo che ho ancora. Ho avuto la linea Drake che era una cosa allucinante perché lì la cosa durava un quarto d'ora, che non andava in trasmissione. Ho avuto quella unica che hai conosciuto tu, ma ne ho avuto tantissime io dei radio con la batteria finale a valvola, tipo quelli della Kimbo che prima della serie 2. Quindi il 920, il 930 prima di arrivare all'840, l'820, l'830 prima di arrivare all'850, tutta la linea delle 102 prima di arrivare al 101 ZB. Ne ho avuto parecchie, ma io ho le fotografie delle mie radio, no? È che è tutto documentato. Quindi ogni radio che io ho sempre preso in più negli anni passati e facevo le foto come ricordo eccetera. E quindi si vede, puglierete di la mia foto, quella delle PSL, quella l'ultima frazione che avevo avuto prima di venire qua, e quindi le radio già vedete quali sono. C'è anche la computer, basta che tu vai sul sito dell'Ari e clicchi il mio nominativo e ti dà immediatamente a me con tutta la radio che è tutta la mia stazione completa. Va bene, va bene. Comunque, l'unica cosa da fare è prima avere la patente e poi comprarsi la macchina. La macchina viene rotta. La macchina non si può guidare senza la patente. Credo che il mio motto io l'ho fatto e l'ho fatto perché l'ho voluto fare con molta passione. Perché dal 1972 che faccio radio, l'ho sempre fatta con belle radio e buona radio. Perché dal 72 sino al 78 ho usato, insomma, diciamo dei bei baracchini, la verità, dei bei baracchini. Poi dal tempo ho iniziato a lavorare in questo tipo di radio, anche se non lo potevo ottenere, però l'ho sempre avuto. La prima radio che ho avuto io è l'Aesio 757, poi ho preso il 757 GX2 e poi sono passato al Kimberly. Il primo Kimberly mi è stato il TS430. Quindi già ero su quotazioni alte, perché allora quando l'ho comprato io il 430 l'avevo pagato quasi 4 milioni, quasi 4 milioni, ti sto parlando dell'80, che non erano i nocciolini. Quindi oggi queste radio le compri a 500-600 euro, 1000 euro, però devi anche avere la passione per poterle per andare avanti, se non ti arriverai, ti ammaiti. E stai nel canale 10 e nel canale 40, capito? Devi farlo andare, devi usarlo per quello che sono, perché per usare la 27 è meglio usare un baracchino, a me non me la frutta nulla, il baracchino continua a usare questa radio, ma questa è meglio dire che quella che usa in 10 metri, quindi in 28, con molto passo anche in 27, ma io poi avere una radio del genere, ma trattarla alla 27, cosa mi va? Ma serve, sì, in definitiva sì, purtroppo è così, bisogna avere il pezzo di carta in mano e poi ti puoi prendere quello che vuoi, è una bella passione. Lì quest'anno scendiamo a Cagliari, la prossima anno scendiamo a prendere questa benedetta patente, preparati. Io prossimo anno già ci organizziamo. Se ne viene a casa a studiare, così facciamo qui e facciamo tutto. E vediamo un po' se ci riusciamo a prendere questa patente. Speriamo, la prendono gli altri, non ci riusciamo noi. Certo, non ti compri, basta studiare e la prendi, cosa vuol dire speriamo? Poi bisogna studiare, no? Non è che andrivi, ti bosi, ti caballacchi, poi consegni il compito a te guardi. Devi andare quando sei preparato bene, che c'è il conto, ti siedi, fai il compito, se non ci metti mezz'ora, ci metti un'ora, con la calma e poi consegni. Io si farò da riesco di Eggio, perché a buttare soldi, ripeto, ribadisco, scendere a Cagliari, a buttare soldi non ci vado. Se scendo a Cagliari devo studiare, devo essere sicuro di prendere la patente, se no neanche ci scendo, capito? Così bisogna studiare, bisogna mettere senza se bisogna studiare e bisogna andare preparati a fare quell'esame, non te si va lì alla Carlona, questo sì, questo c'era, ma quello non è, quello così, no. A studiare quello che bisogna studiare, tutto lì, ci vogliono i libri adeguati e studiare dal libro adeguato, tutto qua. Gava, sei così già. Per una vita sempre questo cazzo di 27. Quello è. No, vedrai ci riusciremo, a doppia. Sì, avrei avuto la patente, me ne sarei andato in 10-20, 40, in 80. L'avrei fatto una bella chiacchierata di elettronica, invece il 27, cosa fa vedi il 27? Il pane è fatto dalla farina, la pasta è fatta dal grano, presto è tronzato. Vabbè, questo devi credere anche tu fare, non è che l'equazione nasce. C'è gente che fa le equazioni particolari e le lasci fare. Tu ti sposti un altro canale e ti fai il tuo, non è quello il problema. C'è chi piace parlare di radio, parlare di cose interessanti, e c'è chi le piace farsi i fatti suoi. Non sarà certo quello il problema, ognuno è libero, fa ciò che vuole. Io mi faccio il mio corso e parlo di quello che mi interessa a me. Poi non è che è un problema, perché uno dovrà morire in 27 ore. Allora io cosa devo dire? Io sono tutte le varie accese e stasera ho fatto un colpo di cuoio al martello, un colpo lì, un colpo là, un colpo qua. Ci sei tu, c'è Daniele, vengo, parlo, faccio e facciamo due chiacchie, due opinioni, due cose, si parla di elettronica, si scattia, si dicono due tronfate. Poi come uno la faccia non è quello il problema, lo fate farlo. Essere presente un po' da tutte le parti. A te piace anche quello, quindi mettiti in testa che ce la devi fare e ce la devi fare, punto. Io quando mi sono messo in testa che volevo prendere la patente me l'ho presa. Per esempio io ero molto più difficile di questo che si parla di voi già, ma io devo. Preso nel 1993 perché posso dire che non la faccio. I candidati erano sempre oltre i 100, 100, 120, siamo arrivati anche a 150, fare due giorni di sessione, proprio perché non c'era manco il posto. I compiti non erano come quelli adesso, i compiti erano scritti veri e propri, non a quiz. E quindi un compito come mi ricordo era capitato a me, c'era da scrivere, da scrivere, da scrivere, da scrivere. E dovevi andarci preparato, perciò c'è anche più possibilità di copiare, attenzione, perché il compito è uguale per tutti, quindi insomma si cercava chi avevi a fianco, che era molto vicino, di aiutarsi uno con l'altro, anche con molta difficoltà, però ci si aiutava. Ma adesso non è più così. Adesso o vai e ne sai, o se non ci andrò neanche a chi ti scelgo di leggere, tutti ti crepano di brutto. Allora ti posso dire una cosa, la noi stavamo parlando appunto, che non ci siamo trovati con Andrea ci siamo trovati. Siccome ho visto che è entrato da Rami, io da Rami stavo scaricando il motore di una apparecchiatura per fargli il riavvolgimento di bassa e alta velocità. Punto. E ne stavamo proprio parlando di questi esami, com'è? Ma è Andrea che erano un casino. Allora tu devi considerare che erano su 15 candidati, lo sai quanto ne hanno bocciato? 12. No, ne hanno bocciato 14. Uno solo è uscito promosso, su 15. 14 bocciati e uno promosso. Cioè se lui si è fatto uno promosso vuol dire che è andato preparato, non è che noi dobbiamo dire trovate, perché io già l'altro volta avevo questo discorso con un collega radioamatore in sezione. Il problema è uno, che se su 15 persone uno è stato promosso vuol dire che ha studiato, gli altri 14 non hanno fatto un cazzo, cioè sono andati lì per cambiare la sedia. Perché se il compito fosse stato difficile, era difficile per tutti e 15. Se per 14 è stato difficile, per uno non è stato un problema, vuol dire che quello è andato lì con una preparazione tale da farci ripassare. È normale, fra, come ne abbiamo già parlato noi, no? È normalissima la cosa. Non è quello il problema, è che dobbiamo metterci in testa, non dovreste mettervi in testa tutti quelli che andate. Quindi si va preparati, non andiamo a fare un compito di stacco, non andiamo a fare una passeggiata, o a scaldare il banco, a sentire quello, batteggiare a medella del casino, no. Ci sei già andato, l'esperienza ce l'hai già, e hai visto cosa c'è. Quello è un esame di stacco, tutti gli effetti, tu hai una patente ministeriale, prova per dartela, devi sapere, se tu non sai, non ti regalami. Luca, di nuovo al capo, non ti regalami. E ma fate così. È così, beh, ho detto così, il compito era molto difficile. Infatti mi ha detto dice 14 gli hanno crepati blocchi. Poi dico, cata qualcosa devi sapere. Io ti faccio dare una mano, devi sapere qualcosa, non puoi andare qui impreparato. Cioè un cacchio, ti siedi e cazzo. Questo qua dice 14 su 15, 14 bocciati e uno promosso. E questo ci ho promosso. In mezzo ai 15, se ne viene che questo ha studiato un bel, ha studiato le cose che doveva studiare, giusto o no? È normale, fra, tu cosa pensi? Questo non ce l'ho trattato, è normale. E come l'altra sessione è la stessa cosa, quando noi poi siamo andati via, avete detto, se sono 25 persone, ne promuovono 12 e gli altri li crepano, vuol dire che quelle 12 persone sono andate lì preparate, sono andate lì per farcela, sono andate lì perché avevano voglia di avere questo cazzo di pezzo di carta. Se tu avevi chiedi con la speranza di arrivare lì e chi ti capiteggia un compito facile, avanti, io ci farò mi preparo via, che non vado io a, a pujarmi, a fare figure, a fare figure di merda lì giù, capito? Non mi bucia, no. Infatti Andrea, ti ho detto, io Andrea, guarda, sono sceso. La verità, avevo studiato, ero impreparato, cosa scendevo a fare? Io gli ho detto, Andrea, non so se era per buttare i studi, che avevo preparato. Lui mi ha detto, se noi eri preparato, hai fatto come? A stillare tutti i gribati. Ma il compito era molto difficile. E su 15 persone hanno promosso solo uno, figurate un po'. Cioè, io al prossimo anno scendo, infatti ti ho detto anche del libro, ma ha detto che... Se non aveva fatto questo libro, che forse lui ce l'aveva, e fammi vedere. Infatti lì qualche... Sei o sabato mattina, se lo lavori, ci faccio un salto con Andrea. Vediamo, ma perché no? Non c'è, non ci sono problemi, per me. Non problemi. Noi la prima settimana di dicembre abbiamo la riunione, quindi ci vediamo per forza. Ci vediamo per forza. Finito lì con che a cosa lì. Domanda se c'è qualcosa di... di vecchio dove si può veramente studiare, fare qualcosa insomma di meglio rispetto all'altro, agli altri libri che sono in vendita. Cosa vuoi che ti dica? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Attenzione, io ho già le 10:20. Riprenditela. Ciao Rava. No, sono 10:25 e sarei solo. Stavo dicendo qua, allora io con Andrea stavo parlando. Praticamente ci vogliono i libri con i quiz. I libri che ci siano i quiz. Praticamente il libro a quiz ti devi fare le domande. Studi prima, e guardi, poi se mica faccio questi quiz qua. Quanto ho sbagliato? 10, 20, 30, e stile e continua a ripetere sempre gli stessi qui. Oggi quanto ne ho sbagliato? 2, e continua, oggi quanto ne ho sbagliato? 1, ecco, adesso sono pronto, c'è da cagare e faccio l'esame. Così funziona, caro Claudio. Devi fare qui brutta e poi te le copi in bella. E vedi un po', quanti errori fai? Lo so fare, lo so. Lo so. Il discorso è lui, infatti. Devi cercare di capire quello che in pratica devi fare, perché altrimenti non ce la farai mai. Non lo so, comunque si vedrà adesso a maggio, se ne hai voglia, inizia a prepararti a gennaio, febbraio. Il tempo c'è, ci bisogna apprezzarci, bisogna fare un programma ben definito, dopo da quel programma poi si deve tirare fuori un riassunto generale di quello che può essere il compito che ti daranno, e cercare di fare il meglio di se stesso, ognuno perlomeno deve fare il meglio di se stesso, perché altrimenti non li vedi. Oppure riunirsi 3-4 persone per dire 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, riunirsi in un posto e studiare tutti assieme. Ognuno dice la sua, chi ne sa di più magari spiega, chi è un po' più indietro cerca di apprendere facendo anche delle prove pratiche, insomma cercare di darvi una mano fra, perché sennò credo che rimane un sogno che la vita patente. Perché alla fin fine, quello che stavamo appunto dicendo noi sessione da poco, è che alla fin fine, se non ci sono candidati, il ministero cosa dice? Signore Belli, arrangetevi, allora a Cagliari non si fanno più esami, chi vuole la patente deve venire a Roma, piante più di spendere i soldi per andare a Roma a prendere la patente. Ecco, purtroppo è un casino, mi dà niente, ho detto, se sei d'accordo, al prossimo anno... Andiamo a Cagliari per fare questo benedetto esame. Vieni a casa e studi a casa, capito? Che problema, i compiti si fanno qua a casa, sporco già cereno. No problem. Ci prepariamo bene da febbraio, Daniela, andrà a maggio, ottobre, siamo bene che preparati. Facciamo calcoli, tutto, resistenze, induttate, tutto quanto. Andiamo a spaccare il culo agli uccelletti e fare figure, una bella figura quando scendiamo. Ehi, no problem, basta organizzarci, Già si fa. Vorrei organizzarci dopo, se ci fa, ci fa. Io ti sto dicendo, io a buttare su, a cagliare non ci vado. Se io scendo, prego giurato di scenderci e di prenderla, questa patente, di ottenerla. Voglio studiare, me la voglio prendere, perché ci devo riuscire a prenderla. Sono sceso due volte, mi hanno crepato e questa sarà la terza volta che scendo, devo salirne con la patente. Chiara, chiara, no, già è così, hai ragione, se no guai. Ma sempre inutilmente neanche andarci. Beh, certo. Ciao, guarda, a febbraio a studiare a Puglia e Daniele, Puglia che ne abbiamo tempo di studiare. Quando ci andiamo a Cagliari, vedi che non ti capita già le domande, che hai studiato. Oh, come niente li fai? È così. Gava, gava, ho capito un secondo. Se tu ti imparo a Cagliari, non sei un cacchio. Ti bossi in chimio, oh, ma com'era questo? E io dico, questo era 30. No, ma sicuro sì, mica era 20. Allora facciamo il caso, no, 30 era, magari era 20, no. Ma era pure 21 qua, ma era pure 21, non è quello il problema, è che, ripeto, bisogna andarci con un minimo di preparazione, se no devo anche pigliarla in, non mai capito, un minimo di preparazione, in modo che uno sia vago mentalmente, no? Nel senso che abbia un prospetto generale di tutto quello che loro, ti possono chiedere, quelli iscritti. Perché se fosse un'interrogazione orale, come era negli anni passati, riesci un po' a dare delle risposte. Ma così per iscritto non è che sia molto facile, non è molto facile. Come quando abbiamo fatto noi il concorso per passare di ruolo, la stessa cosa. Su 300 persone, cioè su 800 persone ne hanno preso 300, sono passati 300. Quindi 500 persone non hanno passato il compito. Tengo miti che è tutti incazzati, capito? E cosa ci vuole fare con le fatture? Fallo. Se si chiama i falli, io sono ben contento per me, no? Io sono tranquillo perché ho il mio posto di lavoro e ho la mia esperienza acquisita, ho i titoli per poter partecipare a un concorso e soprattutto ho la scuola che mi hanno insegnato, che ho preso dagli altri anche, no, come esperienza. Però io vi anche studiare. Ci sono delle cose molto molto particolari e molto molto interessanti nel mio campo di lavoro, quindi se tu già non conosci il processo dell'impianto non ti che ti presenti, perché non hai niente a che fare, nulla. È un po' detto così, no? Chi conosce i bulli, c'è chi conosce i dubbi, poi il dubbio deve cogliere a capo, no? Non c'è la domanda di dubbio. Da noi vedere la gente che conosceva i dubbi, ma oh, fammi se ti attenete, sai cosa è? Dici, ma sei convenuto in un pozzo, chi ti ha a fare, dici, ma? E guarda la matrice in mano, ecco, scollega il tutto e fammi sentire la tua macchina. Questa macchina c'è un motore, gli ho detto, qua, c'è un motore di alta e di bassa, la bassa deve lavorare a 36 ohm e l'alta deve lavorare a 52 ohm. Con due tirotturi, uno di alto e uno di bassa, è entrata a 380, è uscita da 380 ai motori, poi c'è un inversore, cioè l'inversore nel senso di marcia di rotazione del motore della bassa velocità, dopodiché c'è un altro tirotturi di riscaldamento, un commutatore e due elettrovalvole, alimentate a 220, vabbè, dopo noi lasciamo, e qui per la gente c'è una chiusura, la tenutore da 380 che scende alle 27 e poi va fatta la chiusura a stella per farla lavorare a 220 per resistere. Non c'è problema, ma si muove. Se riesci da cominciare a comprare a filo un gatto, un vaso, un dugato. Come sta poi le mani? Uia, ui, va, Claudio mio. Si è messo che erano le 9, è uscito un cazzo che erano le 6, erano 4. qui non ha posto, gli ha fatto 30 anni è fatto, lui mica ha finito, il padre dà l'occhiata, cazzo, mi sono cacciarato, ha visto un bandello, ha già visto sopra, allora lui fa una cosa, non attacca un cazzo, no? No, sono stato in aria, che tutti sono convinti a essere bravi. Alla gente non attacca nulla, no, che baccarità, se vuoi venire, te lo sto rimurendo, la sto cacciando.